Bene, siamo a Visionari come ogni giovedì dalle 14 alle 15. Tanti gli ospiti quest'oggi, come solitamente facciamo. Sapere qualcosa in più sulla scaletta di oggi potete consultare sia il sito della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sia la pagina Facebook, mentre per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Siamo in collegamento con Lionello Cerri di Visionaria per la distribuzione del film Giraffada, che è in uscita in sala oggi giovedì 29 maggio. Pronto Lionello, benvenuto a Visionari su Radio Ondarossa. Ciao a tutti. Allora, un film, una sorta di fiaba che però tocca degli elementi cruciali nel conflitto israelo-palestinese. Ci sono i posti di blocco, i checkpoint, ci sono le incursioni militari, c'è l'arroganza degli uomini in divisa, insomma c'è tensione. Sì, c'è tensione, ma c'è un racconto che è una favola, come dicevi giustamente. C'è anche, attraverso la modalità del racconto, lo sviluppo di tutte le contraddizioni, sia del conflitto dei territori occupati, sia del rapporto tra le persone, eccetera. Un film che vuole essere un momento ulteriore di riflessione, ma lo fa con molta leggerezza, sviluppando un po' questo percorso, diciamo, parallelo, che è la storia di uno zoo nei territori occupati, dove una delle due giraffe durante un bombardamento muore e la giraffa che rimane in vita è incinta e quindi si lascia morire di fame perché vuole avere un compagno, insomma. E da lì parte tutta una storia, secondo noi, molto carina, che è anche un po' una fotografia di quello che è il meccanismo di uno che deve stare costretto a vivere in un territorio e non può uscire se non attraverso delle perquisizioni o attraverso un checkpoint. Tra l'altro, ecco, il fatto che sia una fiaba e anche aperta verso il domani è testimoniato anche dalla foto che ho scelto per la newsletter da mettere anche sul sito della radio. E ci sono l'uomo, la donna e il bambino di spalle, davanti a loro c'è la giraffa che passa nel punto, nel varco che c'è nel muro di cinta che separa i territori occupati in Palestina, e con il sole all'orizzonte. Insomma, una bella immagine in prospettiva futura. Certo, è un'immagine anche un po' di speranza, perché poi riescono a portare la giraffa nei territori occupati. Sì, il sì. Meccanismo è che la portano proprio da Israele, quindi attraversano anche il muro, insomma. Come siete arrivati in contatto con quest'opera e poi la decisione di distribuirla in Italia? Beh, innanzitutto l'abbiamo coprodotta per l'Italia come Lumière, insieme ai francesi e ai tedeschi, e quindi, oltre ad averla prodotta, poi abbiamo ritenuto che, come Visionaria è una società che noi abbiamo, che fa anche distribuzione, parte proprio con questo film a distribuire i film in Italia. Senti, qualcosa in più per chi ci ascolta, di qualche notizia sull'autore, sul regista? È un giovane regista che all'opera prima, è un regista franco-palestinese, è molto attento alle dinamiche sia dei contenuti che della forma cinematografica, lo fa con molta leggerezza, ma con una competenza notevole per essere un esordiente. Mm-hmm. È il primo film che fa, Anima Sala, e quindi speriamo anche che possa emergere anche nel panorama con dei prossimi film. Lionello, in distribuzione da oggi nelle sale italiane quante copie? Sono una quarantina di copie in tutte le città metropolitane, anche in città più piccole, quindi per un prodotto che senz'altro è un prodotto che anche va un po' controcorrente, è senz'altro la possibilità di vedere un film inusuale ma con grande forza e carattere. Io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie a voi. Ciao Lionello. Ciao. Lionello Cerri per la distribuzione del film Giraffada, in uscita in sala oggi giovedì 29 maggio. Ed è con noi Maria Coletti, curatrice della rassegna Cinemafrica in Cineteca, capolavori ritrovati al Cinema Trevi, Cineteca Nazionale, qui a Roma, il 30 e il 31 maggio. Maria, ben ritrovata. Grazie a te per avermi chiamato. Allora, quante opere presenterete? E poi illustracele un po' sommariamente in generale. Sì, guarda, abbiamo 6 lungometraggi e un cortometraggio, quindi 2 giorni pieni di programmazione dedicati appunto al cinema africano, o meglio delle Afriche, diciamo alla diaspora africana nel mondo. Dico diaspora perché apriamo domani alle 5 con uno dei primi film afroamericani realizzati. Parliamo di un film muto del 25 di Oscar Michaud, che siamo riusciti ad avere grazie alla collaborazione con la Cineteca del Friuli, ed è appunto interessante perché è uno dei primi film, sicuramente anzi uno dei primi registi afroamericani di successo, ed è un esempio body and soul di quei cosiddetti race films, cioè diciamo film razziali in cui diciamo che erano pensati, quindi scritti e pensati per un pubblico nero e diciamo interpretato da un pubblico o di un cast all black, diciamo, quindi tutti attori neri. Quindi, come dire, interessante capire come già in questi anni si producessero film diciamo legati in qualche modo all'Africa, comunque alla storia degli afroamericani in America, ed è interessante perché anche il film di debutto di una star nera, una delle prime star nere che come attore, che è Paul Robeson. Mm-hmm. Sempre per il diciamo sul versante, ecco, degli Stati Uniti, consiglio assolutamente a chi volesse appunto può venire di venire a vedersi anche il diciamo il primo pamphlet, diciamo comunque primo film di denuncia contro l'apartheid in Sudafrica, che è il famoso Back Africa di William Rogozin, di Lionel Rogozin, che diciamo è stato poi restaurato recentemente dalla Cineteca di Bologna, e qui presentiamo proprio appunto l'edizione restaurata con i sottotitoli in italiano. Okay. Tra l'altro il primo film in cui compare anche Miriam Makeba. E, come dire, interessante il fatto che appunto questo è stato del 60, uno dei primi film in cui diciamo si denunciava apertamente l'apartheid, e in qualche modo lui è un nome diciamo appartenente alla New American Cinema, quindi diciamo un cinema politico americano, quindi impegnato sul sociale, ma come dire sposa anche un po' i principi del cinema verité, per cui ci sono attori che interpretano una storia, quindi c'è una sceneggiatura, anche se poi la storia che viene raccontata in qualche modo si rifà alle vicende vere vissute dai protagonisti, quindi è un po' un mélange di finzione, di documentario. Mm-hmm. Senti, per saperne di più sugli orari e sulle giornate, ci dai un sito internet di riferimento? Sì, come al solito potete vedere il tutto su www.fondazionecsc.it, e poi c'è anche una pagina Facebook dedicata proprio a un evento dedicato a Cinema Africa in Cineteca, capolavori ritrovati. Così come ultimo diciamo consiglio di visione, ecco, vi ricordo che tra l'altro sabato 31 tutta la giornata sarà dedicata ai film restaurati dalla Cineteca di Bologna con la World Cinema Foundation, e quindi diciamo chi non conoscesse o anche chi ama rivedere capolavori, c'è la possibilità di rivedere alcuni dei capisaldi del cinema africano, in particolare ricordo alle 19 Borom Sarret di Usman Sembène, e a seguire Tuki Bugi di Djibril Diop Mambéty. Come dire, è un modo anche per così ricordare un po' la storia del cinema africano anche nelle sue due facce, nella parte più diciamo documentaristica, più legata alla realtà di Sembène, considerato anche un po' il padre del cinema africano, che considerava il cinema come dire una sorta di scuola popolare per il pubblico, e invece appunto Tuki Buki e Mambéty, che in qualche modo rappresenta un po' il figlio ribelle visionario insomma del cinema africano, quindi uno sguardo molto più libero, sperimentale, poetico, e vederli insieme penso sia un'occasione veramente più unica che rara. Benissimo, Maria, io ti abbraccio, ci risentiamo per le prossime novità. Sì, grazie mille, grazie a te. Ciao. Maria Coletti, curatrice della rassegna Cinema Africa in Cineteca, capolavori ritrovati al Cinema Trevi Cineteca Nazionale, qui a Roma, 30 e 31 maggio prossimi. E ritroviamo Gaetano Capizzi, direttore della 17ª edizione di Cinema Ambiente a Torino dal 31 maggio al 5 giugno prossimi. Gaetano, ben ritrovato. Salve, saluti a tutti. Allora, per chi ci ascolta, l'ambiente in che da che ottica lo prendete voi? Ma dall'ottica cinematografica, devo dire, perché l'ambiente è un argomento complesso dalle mille sfaccettature, per cui poi noi pensiamo che l'ambiente non sia solo l'ecologia, ma proprio siano gli stili di vita, anche diciamo come si lavora, come il benessere di tutti i giorni, per cui abbiamo uno spettro ampio di argomenti che affrontiamo al festival. Quest'anno partiremo dall'Africa con il primo film e arriveremo poi nell'ultimo film un po' nel nord della Groenlandia e nel centro del Pacifico, in un ideale diciamo viaggio intorno al mondo sulla situazione del pianeta Terra, insomma da un anno all'altro. Siamo poi testimoni di quello che succede da un anno all'altro qua, a livello ambientale, ecco. Senti Gaetano, quante sono le opere che presenterete? E poi volevo chiederti, proprio in relazione alla prima domanda che ti ho fatto, se ci sono dei focus legati ad argomenti. Sì, siamo circa un centinaio di film, quasi tutti in anteprima italiana, anche delle anteprime europee. Noi cioè 5 giugno, che sarà la data di chiusura del festival, è anche la giornata mondiale dell'ambiente. Quest'anno è dedicato ancora una volta, insomma, questa giornata al problema dei cambiamenti climatici, che è un problema drammatico, è un problema sempre più pressante. E alcuni film nel nostro programma parleranno appunto del tema dei cambiamenti globali, dei climatici, che sono avvertiti come diciamo il più grande pericolo, la cosa che su cui bisogna assolutamente fare qualcosa immediatamente. Mm-hmm. Questo è un filone. Un altro filone, insomma, che è anche interessante, sono due dei film sul questo è stato la, sono stati gli anni della crisi economica, della bolla dell'oro, no? Vediamo anche cosa significa l'oro a livello ambientale, ecco, c'è un bellissimo film che si chiama Amazon Gold, che appunto la ricerca dell'oro è una delle cause principali della deforestazione dell'Amazzonia. Un altro film sempre sul Brasile, Sierra Pelada, narra tutta l'epopea brasiliana di questa montagna piena d'oro, la Sierra Pelada, che è stata documentata con le fotografie da Salgado, insomma, con questo reportage che ha avuto poi la fama in tutto il mondo. E passiamo poi anche da film che dall'azione di tutti i giorni, insomma, c'è un bel film di Divide and Conquer, è la lotta di un'anziana signora che è riuscita a fare bandire le bottiglie di plastica da Concord, che è una cittadina degli Stati Uniti. E l'esempio adesso è seguito anche da San Francisco, che vuole bandire le bottiglie di plastica dal proprio territorio. Passando poi per gli sprechi alimentari, abbiamo un bel film, Just Eat It, sugli sprechi alimentari, che sono una delle diciamo delle piaghe del nostro circa il 50% del cibo prodotto nei paesi occidentali viene buttato via senza neanche essere toccato. Sì. Ed è un crimine questo, perché sfamerebbe gli 800 milioni di affamati del mondo, attenuerebbe l'impatto ambientale, perché produrre cibo significa consumare tanta acqua, consumare tanta energia, fertilizzanti eccetera, e poi buttare tutto insomma via è veramente un crimine, lo definisco io. Per cui sono tanti gli argomenti trattati, con film di levatura internazionale, grandi documentari che già hanno fatto parlare di loro stessi in giro per il mondo, che adesso approdano in Italia. Mm-hmm. una edizione numero 17 che vi rende, credo, una delle prime manifestazioni a tematica ambientale nell'ambito cinematografico. Volevo chiederti anche se ci sono previsti ospiti delle opere che presenterete. Sì, sono presenti i registi dei film, i protagonisti dei film. Noi appunto tra l'altro quest'anno abbiamo anche un red carpet per cui per fare arrivare gli ospiti. Abbiamo avuto un red carpet lunghissimo che sono le piste ciclabili di Torino, che sono dipinte di rosso e sono dei naturali red carpet che portano ai cinema di cinema ambiente. Ci muoveremo tutti in bicicletta, gli ospiti avranno una bicicletta del bike sharing torinese e prima di ogni film ci sarà una passerella appunto di registi, protagonisti. Benissimo. Che entreranno al cinema in bicicletta. E tra l'altro per l'inaugurazione sabato è previsto un bike gala, per cui decine e centinaia di persone arriveranno al cinema in bicicletta, in abito da sera. Senti Gaetano, qui ospiti di tutti i generi. Sì. Bene. E in chiusura ci dai riferimenti per saperne di più della programmazione su internet? Ecco, abbiamo un sito internet cinemaambiente.it, ma abbiamo da quest'anno anche una app che è possibile scaricare già da adesso, con il programma, le schede dei film, i trailer, per cui si può seguire, farsi una propria programmazione, un proprio percorso all'interno di Cinema Ambiente attraverso l'app, che appunto è già scaricabile. Benissimo, io ti abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a voi, arrivederci, ciao Gaetano, ciao. Gaetano Capizzi, direttore della 17ª edizione di Cinema Ambiente a Torino dal 31 maggio al 5 giugno prossimi. Allora, è con noi Ivan Borman, regista del documentario An Anarchist Life, che sarà presentato in anteprima romana al Teatro Valle Occupato qui a Roma, appunto, martedì prossimo 3 giugno. Ivan, ben ritrovato. Ciao, grazie e buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori. Allora, un'importante figura del Novecento italiano, ma a livello internazionale, in quel di Trieste, Umberto Tommasini, nato a fine Ottocento e morto nel 1980, ha passato tutti i periodi più importanti relativi a questo paese, giusto Ivan? Sì, non solo questo paese, nel senso che la storia di Umberto ci accompagna un po' attraverso tutta l'Europa e attraverso, a partire dalla prima guerra mondiale in cui si trova al fronte, poi confino, esilio in Francia e finalmente poi la rivoluzione sociale in Spagna contro il franchismo e poi il ritorno in Italia. Insomma, ci permette di seguire un personaggio attraverso e la sua partecipazione, il suo confronto con tutti i movimenti poi sociali attraverso tutto il secolo. Insomma, questo ci ha ispirato l'idea di questo film, insomma. Una figura semplice, un fabbro, un artigiano che però ha delle grandi doti di oratore, una figura coinvolgente, un grande narratore ed anche e soprattutto una grossa coerenza che lo ha accompagnato per tutta la vita. Sì, esatto, quello che a noi ha colpito intanto il racconto, la capacità di narratore si evince da questo libro che nella prima edizione si chiamava L'Anarchico Triestino, che è stato riedito in un'edizione in italiano perché la prima edizione era in dialetto triestino, raccolta da Claudio Venza. È una lunghissima intervista in cui appunto Umberto racconta tutta la sua vita e riesce appunto a dare il sapore di una vita spesa assolutamente mettendo pratica e teoria a braccetto e riuscendo a vivere attraverso delle situazioni assolutamente complesse, complicate, eccetera, con uno spirito comunque non solo coerente ma anche ironico, anche divertito E questo insomma ci è sembrato un, come dire, un po' un interessante esempio, ecco, cioè, la sua storia l'abbiamo presa un po' come un esempio, come un mito in qualche modo, in senso positivo, da raccontare, insomma. Sì, tra l'altro, oltre a combattere al fronte nella prima guerra mondiale, ha vissuto, come dicevi, ricordavi tu, il confino, l'esilio in Francia, la guerra civile in Spagna e poi di nuovo in Italia. Poi dopo, sull'onda del 68, è stato uno tra i fondatori del Germinal a Trieste. Sì, esatto. Noi ci concentriamo nel film abbastanza sulla prima parte della sua vita fino alla guerra in Spagna, appunto, e poi in qualche modo c'è una cesura, anche perché era difficile in un film comunque raccontare tutto. Però si accenna, anche perché i protagonisti, gli amici, i compagni che lo raccontano sono quelli che lui poi incontra nel 68. Lui torna a Trieste, una Trieste comunque come dire imbrigliata tra da una parte l'egemonia del Partito Comunista, dall'altra comunque gli scontri nazionali tra filo jugoslavi e filo italiani, e in questo scenario lui continua comunque a mantenere un suo atteggiamento internazionalista e libertario, continua a muoversi anche se in maniera più o meno isolata. Invece poi allo scoppiare del 68 si ritrova ormai settantenne a confrontarsi con dei giovani di 18-19 anni che hanno in qualche modo un'attitudine anche molto embrionale, libertaria e anarchica, e in qualche modo assieme a loro fonda e prende in gestione una sede che sarà poi una sede che si è spostata negli ultimi anni ma è attiva ancora oggi a Trieste, che è un punto di riferimento un po' per tutta la è stata insomma nel corso degli anni un punto di riferimento un po' per tutta la sinistra, l'antagonista di queste parti, insomma. Allora, al lavoro hanno contribuito Anita Kravos, che è stata la voce narrante, e poi ci sono le letture di brani dell'opera di Tommasini, lette da Pino Cacucci, Ascanio Celestini e Cristicchi anche. Sì, esatto. Abbiamo pensato di cercare di dare voce alle parole di Umberto, appunto quelle di un fabbro e del nord-est, eccetera, a personaggi che potessero in qualche modo avere una sintonia con altre cose che avevano fatto in precedenza, oppure con una propria, come dire, empatia e simpatia libertaria, e abbiamo trovato queste tre persone che si sono offerte assolutamente in maniera eccezionale, a cui è piaciuta la storia e ci hanno permesso appunto di fare questo momento in cui appunto le persone che siamo abituati a vedere in televisione o a leggere i libri, eccetera, parlano con le parole di Umberto. Insomma, ci sembrava interessante dare questo respiro, sì, sì. Uscire un po' appunto anche da una dimensione magari localista o dare un respiro un po' più ampio al lavoro. Tra l'altro, nell'anteprima romana di martedì prossimo al Teatro Valle Occupato, gli artisti che hanno composto la colonna sonora eseguiranno anche dei brani dal vivo. Sì, ci sarà Carlo Ghirardato, autore del pezzo finale. In realtà poi il resto della colonna sonora è di un altro musicista triestino, ma Carlo Ghirardato ha composto in realtà proprio per l'occasione una canzone dedicata a Umberto, e assieme al suo trio e a fine film appunto eseguirà live questo pezzo. E l'anteprima triestina, a proposito di insomma dei luoghi di origine, com'è andata l'anteprima nazionale a Trieste? Sì, esatto, l'anteprima è andata benissimo, al di là di ogni aspettativa, nel senso che abbiamo avuto un teatro, un cinema, il cinema Ariston strapieno, articoli sui giornali, eccetera, eccetera, siamo molto molto contenti, interesse che non ci aspettavamo, anche insomma legato a una storia di sì, comunque Umberto Tommasini è un personaggio che ha lasciato sul territorio insomma interesse, affascinazione anche al di là, molto molto al di là direi del delle cerchie del movimento specifico anarchico, ma era un personaggio che, appunto, questo è anche uno dei motivi che a noi ci piace particolarmente, era capace di stare in relazione con tutto il mondo, pur restando centrato, come dice in realtà Claudio Magris nella precazione dell'edizione ultima del libro, un personaggio che riesce a essere risolto e centrato su se stesso, sui propri ideali, sui propri valori, ma che sa mettersi in relazione con gli altri e con il resto del mondo. E quindi credo che anche il fatto che una città come Trieste e un film su di lui dopo a 35 anni della morte più o meno riempia una sala cinematografica di 300 posti, insomma, credo che ci dica abbastanza di quanto il suo esempio, il suo modo di stare in relazione con il mondo sia stato importante. Mm-hmm. Tra l'altro avremo adesso poi tutta una serie di altre proiezioni, iniziative, un po' il film non abbiamo una vera e propria distribuzione al momento, ma lo stiamo portando un po' in giro noi in alcune presentazioni, e dopo questa importante presentazione per noi al Valle e avremo anche una presentazione a Vivaro, che è il paesino d'origine in Friuli, e che stiamo organizzando insomma assieme al comune di Vivaro, e avremo all'interno di una rassegna di cinema in piazza presenteremo il film. Il paese è il paese d'origine, ma è anche il paese in cui Umberto è morto. Mm-hmm. E quindi insomma, per quanto riguarda la sua memoria, abbiamo notato che è veramente rimasta ancora palpabile, viva e presente. Speriamo un po' con questo film di riuscire a farla uscire appunto da una dimensione locale e portarla in giro sicuramente per l'Italia, sicuramente per l'Europa. Stiamo programmando un piccolo tour spagnolo per l'autunno. E ci sono arrivate richieste dal Bogotà Film Festival in Colombia, da un piccolo cinema italiano a Berlino. Insomma, stiamo cercando di farlo girare. Bene. Un po' per portare in giro questa storia che ci sembra che abbia dei valori universali e non solo locali. E per conoscere questa storia, l'appuntamento qui a Roma è martedì prossimo 3 giugno al Teatro Valle Occupato. Ci vediamo lì, Ivan, per questo film. Voglio ringraziarvi per tutto l'appoggio fin dall'inizio, ancora all'epoca del crowdfunding. Abbiamo raccolto dei soldi, ci avete dato insomma uno spazio, questo è stato importante. Bene, un abbraccio, Ivan. Ok, ciao, grazie. Ciao. Visionari su Radio Onda Rossa il martedì dalle 14, il giovedì scusate, dalle 14 alle 15. È con noi Jonathan Nossiter, regista del documentario dedicato al vino Resistenza Naturale, in uscita in sala oggi giovedì 29 maggio. Jonathan, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Allora, raccontaci un po' di questa storia che attraversa i produttori, attraverso le voci dei produttori di varie regioni italiane, ci racconta una storia diversa rispetto alla produzione del vino. Ma senti, magari più che attraverso le parole, perché il cinema, cioè io ho fatto film di finzione e film di documentario, e alla fine non c'è differenza, sì. Perché quello che dà forza per me al cinema è la capacità di un essere umano davanti all'obiettivo di trasmettere le cose vere, sotto, non sono le parole, non sono le espressioni, cioè siamo sempre ingannati dalle lacrime, quelli che vincono l'Oscar per migliore attrice che piangono, ma alla fine non è questo, sì. Non è questo, e io ho avuto la fortuna, cioè io direi che tra i due più grandi attori con cui io ho avuto la fortuna di lavorare nella mia vita, c'è Charlotte Rampling, con cui ho fatto due film, e c'è Stefano Bellotti, che è un po' il Pasolini, il Clint Eastwood anche delle vigne. Mm-hmm. E lui, Elena Pantelioni, Corrado Dottori, Giovanna Tiezzi, sono dei vignaioli dalla Toscana, ma le Marche, Emilia, Piemonte, che vivono di modo talmente bello e vero e un stato di ribellione contro questo sistema fallito nostro, e sto parlando del mondo, non solo dell'Italia, per carità, che quando loro stanno davanti all'obiettivo c'è un'energia magica. Cioè, io vorrei mandare Tom Cruise dall'azienda Pacina in Toscana per imparare cosa vuol dire essere vero e elettrico, il carisma di un star. Perché quando c'è Giovanna Tietti che ci racconta come dopo 8.000 anni degli Etruschi sulla sua terra, che lei continua a fare un'agricoltura sana, nella biodiversità, nel rispetto assoluto della natura, e che così va distruggendo tutte le leggi fatte a Bruxelles, fatte a Roma, e lo fa col sorriso, un gioia di vita. Io, per me, là siamo nel cinema, io ho avuto questo piacere. Il film Resistenza Naturale è un modo di condividere queste scoperte meravigliose. Oh, nonostante loro, ecco, facciano molta attenzione alla natura e a una produzione sana, sono anche volontariamente al di fuori del circuito dei vini DOC. Perché il DOC, come qualsiasi certificazione governativo, purtroppo nel nostro mondo, un mondo veramente uno stato spaventoso, e smettiamo di dirlo, non siamo in crisi, c'è stato un cambiamento nell'ordine socio-economico totale, e continuo a chiamarlo la crisi per metterci uno stato di paura, e anche nella falsa aspettativa che le cose cambieranno. Le cose non cambieranno se noi non facciamo la ribellione. Ovviamente tanti ribellioni sono stati fatti nel Novecento di modo orribile, disprezzoso della dignità dell'individuo, e nel nome della rivoluzione, della ribellione, hanno massacrato tanta gente e tanta etica. La cosa incredibile dei vignaioli naturali in Italia, anche in Francia, è che loro trovano un modo di ribellarsi contro queste regole e leggi antietiche, perché dietro ogni iniziativa agricolturale del governo, sia governo italiano, francese, americano, lo stesso, c'è l'interesse del lobby dell'industria chimica, dell'agroalimentare, che sta distruggendo il nostro cibo. E il vino, bisogna ricordarsi che il vino è l'ambasciatore del gesto agricolturale. Sì. La cosa incredibile di un Stefano Belotti a Cascina delle Olive, o un Corrado Dottori alla Distesa nelle Marche, è che loro riescono a uscire di questo modo di schiacciare l'essere, l'individuo, fare dei vini. Cioè, Corrado costretto a uscire dal DOC del verdicchio, perché il DOC del verdicchio è una truffa costruita dall'industria, che vuol infatti venderci un verdicchio che è vuoto di colore, vuoto di sapore e vuoto di trasmissione culturale. E dunque lui riesce a fare un gesto artigianale, contadino legittimo, ma anche un agente di trasmissione di cultura italiana, perché dobbiamo non dimenticare che l'agricoltura è uno dei più profondi espressioni culturali, cioè è agricoltura, non solo cultura. E in questo io sono stato molto ispirato di loro. Io, che sono cineasta, che lavoro un mestiere quasi morto, pieno di cinismo, vedo loro, il loro modo di portarci gioia, e anche di modo democratico. Per esempio, Corrado Dottori fa un vino sfuso naturale, cioè oltre il biologico, veramente puro, per 5 litri 12 euro. Dunque, anche un gesto democratico molto importante. La cosa più incredibile è vedere che loro, questi contadini, che fanno anche, cioè Stefano Belotti per esempio c'ha grano, fa grano, c'ha 23 mucche, sono agricoltori e vignaioli, e questo è anche un segno di vitalità. E loro, nel primo gesto contadino, di dignità contadina, di civiltà contadina, loro dopo hanno creato un mercato alternativo, perché dopo ci sono importatori, distributori, enotecari, ristoratori che seguono questo movimento radicale di vino naturale, che riprendono l'etica del gesto e li portano in città. E sì, questo io trovo veramente, in un momento tanto buio quanto il nostro, nonostante il sole oggi a Roma, Io mi sento molto ispirato perché vedo che loro riescono a creare un altro mondo. Sì, sì, sì. Senti Jonathan, da oggi nelle sale in quante copie? Una ventina, qui a Roma, sarà Cinema Aquila, al Cinema Eden, esce anche a Milano, a Bologna, a Firenze, Pisa, bene, Padova, Bari, tante città. Io sono molto felice che questo modesto film, che racconta anche il rapporto tra il cinema e l'agricoltura, perché sì, non è solo questi eroi resistenti naturali dell'agricoltura, racconta anche la storia della resistenza cinematografica, cui leader io direi questo Gianluca Farinelli della Cineteca di Bologna, che è un tesoro nazionale. Sì, noi lo sentiamo abbastanza spesso Gianluca. Senti Jonathan, un abbraccio di in bocca al lupo. Crepi. A presto, ciao. Ciao, grazie. Jonathan Nossiter, regista del documentario Resistenza Naturale, in uscita in sala oggi giovedì 29 maggio. Con noi Alice Rohrwacher, regista del film Le Meraviglie, uscito in sala lo scorso giovedì 22 maggio. Alice, ben ritrovata. Grazie, ciao. Ciao, ci eravamo sentiti per il tuo primo film, eccoci di nuovo qui, tra l'altro girato in un luogo, l'area del lago di Bolsena, che conosco molto bene, e poi ti racconto insomma anche le realtà che ringrazio alla fine del film nei titoli di coda, li conosco un po' tutti insomma. Senti, allora, per chi ci ascolta, raccontiamo un po' cos'è questa storia. È la storia di una famiglia che vive in campagna e che deve un po' appunto fare i conti col mondo esterno, diciamo un piccolo regno costruito da questo padre apicoltore e colto nell'estate in cui la primogenita cerca insomma di confrontarsi col mondo esterno, insomma, con la via da prendere, diciamo. Sì, sì. Senti, ci sono dinamiche familiari, però di contorno c'è anche una storia che parla dell'utilizzo dei pesticidi e diserbanti in agricoltura, dell'abbandono della terra in qualche modo. Sì, si parla di una campagna che da una parte viene appunto distrutta da un uso abbastanza opinabile dei prodotti chimici e dall'altro invece viene trasformata in una sorta di parco tematico degli antichi valori e dell'antico tempo che fu. E in tutto questo però non ci sono diciamo i buoni e i cattivi, ma anche si capisce che anche i contadini che poi vengono portati a usare certi prodotti vengono sempre portati e convinti da una forza superiore, diciamo, non è che sono malvagi, lo fanno perché si fa così. Ci sono degli elementi autobiografici, ma come nasce la spinta a fare questo film, Alice? Diciamo, non è la storia della mia famiglia, non quello che c'è di personale è il luogo in cui è girato, perché sì, è il luogo in cui io sono cresciuta, appunto tra la bassa Toscana e l'Alto Lazio, diciamo la Maremma e la Tuscia, come la chiamano adesso. Sì, la Tuscia. E poi diciamo il fatto che si parla di api, che comunque il lavoro di mio padre è l'apicoltore, però appunto e anche che si tratta di una famiglia mista. Detto questo, chiaramente io vengo da una famiglia mista e ho conosciuto molte famiglie miste. E perciò diciamo mi sono molto ispirata a questo, volevo raccontare una famiglia che appunto non possa essere classificabile eppure la vediamo agire con molta verità. Mm-hmm. E quindi diciamo si capisce quanto è difficile in fondo classificare le cose, no? E definirle, dire questi sono i contadini, questi sono i proprietari, non è più così chiaro e semplice. Oh, a proposito di famiglie miste e terra, poco fa abbiamo sentito Jonathan Nossiter per il documentario Resistenza Naturale. A questo punto voglio chiederti qual è il tuo rapporto con la terra? È bassa. La terra è bassa, io mi piego, diciamo. E no, già una bella immagine. Cerco di andare verso di lei, no? Sono cresciuta in campagna e quindi insomma ho vissuto con, come si dice, in maniera molto semplice, organica, il fatto che il cibo viene da lì. Però poi me ne sono anche andata, insomma, sono tornata per fare questo film. Sì, sì, sì. Senti Alice, diciamo, cosa ha suscitato questo film, almeno a livello di pubblico rispetto a questa prima settimana di programmazione, a livello di critica, e poi c'è stato questo importante premio francese? Sì, è stato, è un film che bisogna vedere perché è molto difficile definirlo, appunto, un po' come questa famiglia che non riusciamo a capire bene sono, che cosa sono. Il film gli assomiglia, è un film che cerca di costruirsi indipendentemente da alcune regole che in genere si usano nel cinema, che sono regole che di ricatto, diciamo, emotivo, oppure di appunto di, come si può, maledizione, no? Penso che sia la possibilità di fare comunque un'esperienza. Sì. È un film che bisogna voler conoscere un po'. Senti, questa prima settimana di programmazione mi sembra che sia andata bene. Io non ho molto, cioè non ho neanche internet, sento delle voci, mi arrivano dei messaggi, ma mi sembra che stia andando molto bene. Mi sembra che ha portato al cinema tante persone che normalmente non vanno a vedere magari un film che è fuori dai circuiti principali, come appunto è un film che è stato per esempio molto richiesto anche nei piccoli cinema, no? Sì. Di paese. Sì. E che normalmente sono abituati a un tipo di programmazione completamente diversa. E quindi questo è molto bello, insomma. Senti, sicuramente il riconoscimento che abbiamo avuto a Cannes è stato importante, e penso che gli ha fatto bene anche a questo film, insomma. In chiusura, questo titolo? Le meraviglie. Questo titolo viene un po' da, perché dentro il film si parla anche di questa trasmissione televisiva, sì, condotta, sì, da Nilli Catena, che sarebbe Monica Bellucci, chiamata Il Paese delle Meraviglie, che appunto vuole, è una sorta di gara tra la famiglia più tipica, la famiglia più vera. E quindi da una parte c'è questo riferimento, ma dall'altro, quando dovevo scegliere il titolo volevo tanto trovare una parola che riportasse comunque agli occhi, perché stiamo parlando comunque di un film. E spesso si passano ore, conferenze, interviste a parlare di trame, personaggi, e spesso nessuno ti chiede delle immagini, no? E invece il film si fa anche con le immagini, e meraviglia, la parola meraviglia è tutto quello che io non riesco a trasformare, che mi sorprende e non riesco a trasformare in parole, che viene tutto quello che mi sorprende, che entra dagli occhi, diciamo etimologicamente dentro appunto c'è lo sguardo. Quindi mi piaceva che nel film ci fossero anche dei momenti che magari che fossero incanto degli occhi soprattutto. Alice, io ti abbraccio, a risentirci per le prossime novità. Va bene, grazie. Ciao. Buona giornata. Ciao. Alice Rohrwacher, regista del film Le Meraviglie, uscito in sala lo scorso giovedì 22 maggio. Ed ecco noi Enrico Cerasuolo, regista del documentario Ultima Chiamata, le ragioni non dette della crisi globale, presentato qui a Roma al Cinema America Occupato domenica prossima, 1° giugno. Enrico, ben ritrovato. Grazie, ciao Federico. Tutto bene intanto? Sì, tutto bene, grazie. Sono molto contento perché il film sta girando sempre di più, per cui è importante che lo veda molta gente. Tra l'altro è il frutto di un lungo progetto, giusto? Sì, lunghissimo, ci ho lavorato 6 anni, dal 2007 fino all'anno scorso. I limiti della crescita, un testo del 1972, prendi le mosse da questo, no? Sì, la storia parte da un italiano ed è anche il motivo per cui io sono venuto in contatto con questa storia, cioè da Aurelio Peccei, che era un manager Fiat e poi Olivetti, che viaggiava moltissimo e che fra i primi fu uno tra i primi a rendersi conto che i problemi stavano diventando globali, per cui era preoccupato per il futuro del pianeta e fondò un club che oggi si chiamerebbe una think tank, diciamo, nel 1968, che si chiamava Club di Roma. E I limiti della crescita fu il primo rapporto scientifico scritto per il Club di Roma. E divenne un successo incredibile, diciamo che uno dei, forse tra i 3 libri fondatori del movimento ambientalista. Tra l'altro, ecco, c'è anche il pensiero, l'opera di uno scienziato tuttora vivente che ha studiato la dinamica dei sistemi, che sono un po' tutti in interrelazione. Sì, lui si chiama Jay Forrester, è molto anziano ma ancora molto in gamba ed è nel film. E questo libro fu il frutto dell'incontro fra Peccei, che era un umanista, e questo genio scientifico Jay Forrester, che appunto fondò questa scienza che studia l'interazione fra sistemi complessi, e quindi era un po' l'unico al mondo a poter disegnare un modello di mondo per capire degli scenari possibili per il futuro del pianeta. L'attualità di tutto questo è che gli scenari possibili che loro disegnarono con quello studio, che utilizzava i primi calcolatori all'MIT di Boston, in pratica il peggiore dei loro scenari, perché loro ne disegnavano diversi, lo stiamo vivendo oggi. Quindi era un avvertimento sui limiti della crescita più di 40 anni fa, che si è scelto di non ascoltare, diciamo. Sì, perché poi comunque era abbastanza ovvio che la Terra, che è un sistema finito, non può prevedere una crescita infinita, insomma, di per sé. Esatto, sì, chiaramente lo studio è molto complesso, però il messaggio di base è molto semplice e anche inconfutabile, cioè non, quello che dicevi tu, non si può crescere all'infinito dentro un sistema finito. Sì. E questa però è una cosa che in primis gli economisti e poi anche i politici di tutti i lati, eccetera eccetera, continuano a non accettare. E due dei più grossi drammi, delle conseguenze di questa di questa crisi globale, uno riguarda il clima, l'innalzamento del clima, e l'altro l'esaurimento delle risorse naturali, giusto? Sì, esatto. Nell'ultima parte del film, perché io racconto tutta la storia del libro, della sua nascita, il percorso fatto dagli autori e in tutti questi 40 anni, le controversie che sono durate appunto decenni intorno a questo messaggio, e anche quello che loro pensano del presente e del futuro oggi. E una delle crisi che li preoccupa maggiormente è quella legata all'emissione di gas serra, perché è abbastanza possibile che se continuiamo con questo ritmo, perché sebbene tutti siano d'accordo che le emissioni dovrebbero diminuire, stanno continuando ad aumentare, si innescheranno dei feedback, delle reazioni a catena, diciamo, che non a un certo punto non potremo più controllare. Per cui questa è sicuramente una delle crisi. La caratteristica, diciamo, del pensiero di questi autori è un pensiero sistemico, olistico, per cui il loro modo di interpretare le crisi, sia la crisi ambientale che quella economica, che quella finanziaria e tutte le crisi che stiamo vivendo, le interpretano come sintomi della crisi globale legata al superamento dei limiti. Mm-hmm. Per cui è un modo diverso al quale in realtà non siamo abituati, soprattutto dai mezzi di comunicazione di massa che tendono a concentrarsi sull'urgenza di una crisi che, passato l'allarme, due giorni dopo non fa più notizia, per cui si passa ad altro. In realtà questo tipo di crisi hanno dei tempi molto più lunghi, sì, dei tempi della comunicazione. Sì, sì. Mi ricordo durante la nostra conversazione la scorsa volta che mi dicevi che uno dei protagonisti del tuo documentario individuava come possibile alternativa o soluzione la sostenibilità, che ormai però è bella che superata, e l'unico strumento fattibile è quello della resilienza, quindi del tentativo di superare le continue crisi che ci si pongono davanti. Sì, il concetto di resilienza, in particolare per Denis Nedos, che era tra i due autori principali del libro, che erano lui e la moglie, Donella Nedos e Denis Nedos. Lui studia molto, è molto interessato a questo concetto, appunto perché secondo lui siamo andati talmente oltre che la sostenibilità, così come la intendiamo, è ormai una chimera, e conviene invece concentrarsi sulla resilienza, cioè lo studio per raggiungere la capacità di assorbire gli shock e continuare a funzionare. Mm-hmm. Questa resilienza da studiare sia nei massimi sistemi sia nella vita quotidiana, e implica tutta una serie di possibili azioni anche culturali, ad esempio la rete, essere in rete e collaborare è una delle strategie resilienti, sì, diciamo. Sì. Bene, allora ricordiamo l'appuntamento per domenica prossima, 1° giugno, ci sarà la proiezione di questo documentario, ci sarà un vostro video saluto e ci sarà anche la presenza di Andrea Baranes, che oltre ad essere un occupante del Teatro Valle è anche presidente della Fondazione Culturale Responsabilità Etica, per parlare di tutto questo. Io, Enrico, ti saluto, ti sentirò anche in video messaggio, e un abbraccio. Un abbraccio e a presto. Grazie mille, un abbraccio. Ciao. Ciao. Enrico Cerasuolo, regista del documentario Ultima chiamata, le ragioni non dette della crisi globale. Siamo in collegamento con Giorgio Molteni, regista del film Bologna 2 agosto. Ci sei, Giorgio? Sì, ci sono, buongiorno. Come va? Ciao, buongiorno. Bene, bene. Un po' in agitazione, dai. Perché, sì, sì. Tra l'altro, ecco, in uscita è sempre... Tra l'altro sei proprio alla stazione di Bologna, questo film è dedicato insomma a quella tragedia, la bomba nella stazione di Bologna del 2 agosto 1980, 85, le vittime, insomma in che modo, soprattutto per chi ci ascolta, in che modo hai voluto affrontare questa questione? Guardate, il modo è quello della ricostruzione fedele sulla base degli atti processuali di come sono andate le cose. Non c'è una grossa interpretazione, se non delle piccole diciamo personali, così piccole varianti o variabili. Di sicuro è un film che rispecchia quello come sono andati i fatti, ma rispecchia anche, diciamo, il mistero, i lati oscuri, di sicuro le intercettazioni, i servizi segreti deviati, le interazioni tra la politica di destra e l'estrema destra, che in qualche modo, come poi sono sviluppate le indagini, sembra siano state implicate in questa, come autori di questa. Senti, Gio... è attore di questa pagina tragica della cronaca e della storia dell'Italia. Sì, sì. Allora, una nota critica e alcune considerazioni. Nel film qualcuno definisce Inar una manovalanza di periferia, ma in realtà il gruppo fondante dai Fioravanti agli dai fratelli Fioravanti agli Alibrandi erano monteverdini, quindi figli della Roma Bene. Però oltre a questo le considerazioni generali sul film è che comunque mette in mostra i legami tra estrema destra, servizi segreti, massoneria, punta in dito sul depistaggio che voleva la matrice internazionale di questa di questo attentato, ma così poi non era, perché era tutto interno invece materialmente all'estrema destra, e gli omicidi poi successivi sono una chiara dimostrazione di questo, dall'informatore che viene ucciso alla giornalista che si sta occupando del caso, alla pentita di destra che viene uccisa anch'essa. Insomma, ci sono degli elementi importanti nella ricostruzione della verità storica nel tuo film, comunque. Sì, sicuramente sì, però non so se avete notato, se avete visto il film. I personaggi di questo film si ispirano ai personaggi reali, tant'è che sono utilizzati i nomi di fantasia, poi delle clip di repertorio riportano ai fatti come sono avvenuti, insomma, cioè, diciamo, il repertorio è un altro personaggio importante del film. Giorgio, volevo chiederti come è nata l'esigenza di questo film. Guardate, e come nasce intanto, poi? Allora, l'esigenza è nata da chi ha scritto il soggetto, che firma con me il film, che si chiama Daniele Santamaria, qualche tempo prima. Poi sono stato contattato per dirigere, mettere in scena il film. Confesso che mi sono chiesto un po' di cose, perché sono in 34 anni, nessun collega o produttore è mai riuscito o gli è venuto in mente di girare un film su questo episodio, per cui un po' di titubanza, di qualcosa mi sono chiesto, insomma, non è semplice affrontare, e so che sto andando incontro a critiche, probabilmente a valutazioni distorte, probabilmente a pregiudizi, è molto delicato, però l'ho voluto fare perché comunque oggi, in un panorama cinematografico dove si produce tutt'altro, e diciamo che è un film che va anche contro, vorrebbe andare contro la tentativo di rendere soporifero un po' tutto la produzione culturale che si sta caratterizzando in questo momento, caratterizza in questo momento la produzione sia di cinema che di letteratura, eccetera. È un po' presuntuosa la cosa, però questa è una valutazione sicuramente da chi fa cinema da tanti anni, di azzardare, ecco, di firmare una pellicola di questo genere. Ecco, proprio a questo proposito, Giorgio, volevo chiederti se hai avuto ostacoli di qualche tipo nella realizzazione. Ma guarda, gli ostacoli ci sono stati, un po' tra gli autori, un po' mi hanno messo un po' di paura qua e là, un po', adesso non so quanto fossero realisti, però ci sono stati, e alla fine il film ha avuto anche una vita un po' travagliata anche dopo, perché a un certo punto a film in montaggio sparirono delle scene. Quindi siamo stati costretti con grande fatica, perché io anche voglio annunciare che il film è prodotto con capitali privati, non c'è un intervento come si può immaginare o come succede spesso, di interventi da finanze istituzionali, cinema di regime, di televisivo e quant'altro, cioè capitali privati innestati in una produzione molto a rischio. Tant'è che quando sono saltate le scene, per montare il film abbiamo dovuto rigirare. Rigirare vuol dire rimettere in mano a un meccanismo economico, non cioè non indifferente, per cui abbiamo avuto ostacoli anche lungaggini nel dopo le riprese, per cui è stato un po' di travagliato, insomma. Senti Giorgio, da oggi nelle sale in quante copie? Allora, mi dicono una cinquantina, comunque sicuro io a memoria vi lancio a Roma tre punti, gli UC Cinemas, il Cinema Lux a Milano, in zona Milano Nord, l'Albicocca, Luci Bicocca, e poi a Como, Lissone, eccetera, Torino mi pare, Moncaglieri, e Lingotta, Genova, Fiumara, Udine, vabbè, insomma, Ferrari, le città, Emilia, Napoli, sì. C'è una, insomma, copriamo in maniera un po' così, a macchia di leopardo, sì. È un leopardo un po' smacchiato. Diciamo. Però se il pubblico risponde, crea l'interesse di chi ha vissuto quel periodo, chi ancora non l'ha vissuto, magari i ragazzi potrebbero avere quantomeno lo stimolo ad andare a capire un po' di più, e le sale poi aumentano, ecco, speriamo. Giorgio, io ti ringrazio. Un abbraccio e in bocca al lupo. Ciao Giorgio. Giorgio Molteni, regista del film Bologna 2 agosto, i giorni della collera. Con questo finiamo con l'appuntamento settimanale di Visionari, che torna giovedì prossimo dalle 14 alle 15. Le informazioni le trovate sulla scaletta, che è sia sul sito della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sia sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi è visionari@ondarossa.info. Alla settimana prossima.